Ok. Sì. E oggi non ho dormito. Tu hai dormito tutti i miei, con i capelli. Sì, oh. Oggi il microfono viene un po' più barico. Io vi saluto, tornerò con la persiana nel 2012. Buon anno. Non ci interessa, tanti auguri. Alleluia, noi siamo cacciati davanti, siamo arrivati alla fine. Vogliamo ringraziare. Vogliamo ringraziare. Sì, ringraziare l'organizzazione della festa del cioccolato di Valtari a Pieretto che ci ha ospitato. È stata bellissima sabato, grazie. Grazie. Ci scusiamo per Emilio. Ricordiamo che per chi ricordiamo che abbiamo deciso di far partire una nuova iniziativa, ovvero rendiamo Emilio tronista. È un bel annuncio. Ma lei deve dire. Chi sa cavi? Può essere piuma o può essere ferro? Con questo io vi annuncio che Maria De Filippi, poverina, andrà in bancarotta. Fratello di Dio. Allora, Padre, Figlio e Spiriti Santi. E chi è arrivato? Padre Diabolezzo? No, Padre Pasquale. Non l'hai capito. Basta sta. È un po' complicato. È come... La buona azienda di famiglia, sì. Ah, ci sono su azienda. Ah, quindi tu si partiti per le cose. Okay. Ma se cliente? No. Fatemi chiudere. Io. No, chiudiamo, voglio. Abbiamo fatto una puntata di 20 ore. Oh. Io chiudo, vi lascio. Un bacio. Oh. Un benvenuto anche se all'ora da buonasera. Sì, infatti mo se mi fai parlare, grazie. Io vi lascio, ci troviamo con l'ultima puntata di quest'anno lunedì prossimo e vi lascio. Per quest'anno io vi lascio con Angelo la sua canzone che chiude. Best off e poi ci ritroviamo nel 2012. Con la puntata 2. Prego Angelo e buon. Uno punto. Nel 2012 ci ritroveremo con la puntata 2. Va bene, io lascio ad Angelo, buonanotte. Allora, facciamo la 1.12 la prossima, poi ci sarà 1. Best off e poi ci sarà la 1.13. Va bene. Va bene. Prego. Lasciamo il microfono ad Angelo, vi auguro buonanotte. Buonasera, sono Micci di Bagnini, vorrei salutare a tutti i miei fans su Facebook e vorrei dedicare a tutti loro una bellissima canzone dedicata giustamente ai miei fans, come ripeto. Sentite che non ve ne pentirete. Ricordati che devi vivere. Ricordati. Domani che festa, che oggi è sabato e domani. Ricordati che domani devi morire. Ciao ragazzi, pubblicità da Amici dei Bagnini. Merry Christmas, Eurio Macho. La la la la. Buone feste a tutti, ciao ciao. Comunque, buona serata da Emilio. Buonanotte a tutti e ci ritroviamo la settimana prossima. Sì, ciao. DJ è morto pure DJ.